Con Gianluca Aguzzo di My Movies per parlare della sala web in streaming su mymovies.it e repubblica.it della 75esima mostra del cinema di Venezia a partire dal 30 agosto. Gianluca, ben trovato. Eccoci, ciao, ciao, ciao. Ecco, anche quest'anno ci Anche risentiamo. quest'anno. Presentaci allora quest'idea. Sì, anche quest'anno ripetiamo l'operazione con la sala web del festival di Venezia, quindi la possibilità di poter vedere i film in contemporanea con le proiezioni al Lido. Quindi abbiamo 16 anteprime mondiali quest'anno su My Movies che trasmetteremo online per soli 5 giorni, quindi l'opportunità di essere al Lido senza esserci fisicamente. Sono 10 film dalla sezione Orizzonti, 2 di Sconfini, 2 fuori concorso e 2 Biennale College Cinema. I film arrivano da tutto il mondo, dalla Siria, dall'Indonesia, dalla Thailandia, Turchia, India, Francia, Italia, abbiamo ben 4 film. Insomma, un'occasione assolutamente da non perdere per partecipare da lontano al Festival più antico del mondo. Dal 30 fino al... Dal 30 fino a domenica 9. Domenica 9 avremo l'ultima sessione di film. Partiamo il 30 agosto con Yuva. Un film di Biennale College, un film turco, un giovane regista turco, e chiuderemo invece il 9 di settembre con il 7 di settembre con Mantarei, questo come dal punto di vista di anteprime mondiali alle 21. Poi andremo avanti per altri 2 giorni fino alla domenica con delle repliche. Ecco, ogni giornata come sarà articolata? Quanti saranno i film e quali orari? La proiezione è abbastanza contemporanea a quella del Lido, quindi in Ok. generale l'anteprima mondiale al Lido è alle 2 e noi andremo online dalle 21. Quindi giovedì 30 avremo un solo film in anteprima mondiale alle 21, quindi Yuva sarà possibile vederlo dalle 21 del 30 per i 5 giorni successivi. Il venerdì 31 agosto invece avremo altri 3 film in anteprima mondiali. Amanda, Deva e Deslembro. E così per tutti gli altri giorni. Abbiamo 4 film italiani, 1938 diversi di Giorgio Treves, fuori concorso. Abbiamo Camorra di Francesco Patierno, un film assolutamente molto atteso, che arriva da Sconfini. E ancora il film di Ciro D'Emilio, Un giorno all'improvviso. E arrivederci al secondo di Wilma Labate. Benissimo. Gianluca, dato che stavamo parlando, hai accennato anche allo scorso anno, e che riscontri ci sono stati? I riscontri sono straordinari. Ogni anno cresce sempre di più, ma come sappiamo è uno streaming aperto fino a 1.000 persone, quindi più di tanto non possiamo aprire. Ricordo che si tratta di un'operazione di comunicazione, di un'operazione che vuole promuovere il cinema, perché poi molti di questi film usciranno nelle sale cinematografiche, quindi seguiranno il loro percorso naturale. È un'attività di promozione, quindi sì, l'attività migliora, hanno più, sempre di più, però a un certo punto ci dovremo purtroppo fermare perché abbiamo un limite. Probabilmente anche corretto sotto qualche punto di vista, di mille posti disponibili. L'anno scorso abbiamo fatto dei sold out, quest'anno siamo curiosi di capire se ci saranno altrettanti sold out su alcuni film. C'è molta attesa sui film italiani, siamo molto contenti di averne 4 quest'anno e speriamo sempre in meglio. In chiusura, Gianluca, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, assolutamente, da mymovies.it, già dall'home page ci sono tutti i richiami per poter accedere alla sala web, chiaramente servirà attivare un abbonamento per accedere ai film, ma stiamo parlando di un abbonamento di 17,90 € per vedere i 16 film, quindi parliamo di poco più di un euro a film. E con questo abbonamento poi potrai vedere per ulteriori 3 mesi altri film disponibili all'interno del catalogo. Basta andare su mymovies.it, da lì ci sono tutti gli accessi per accedere ai dettagli e alle pagine della programmazione in streaming. Ricordiamo allora l'appuntamento con Sala Web in streaming su mymoviesrepubblica.it della 75ª Mostra del Cinema di Venezia. Un ringraziamento e un saluto a Gianluca Guzzo di My Movies. Gianluca, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo e a prestissimo. Grazie, ciao.